Allora, dunque, il libro di cui parliamo, che magari ce n'è una copia qua che Secondo così Manolo, lo sfogliamo. lo sfogliamo, perché io non, ho solo il PDF, quindi sento un po' brutto, quindi sono stampato un po' di robe. È un libro di Jean Baudrillard che sono praticamente le sue ultime due conferenze. L'ultima, che bello, così almeno non ce l'ho ancora. Grazie. E già i titoli sono abbastanza significativi: Carnevale, Cannibale e Il male ventriloquo. E Jean Baudrillard è stato uno dei più grandi filosofi francesi della seconda metà del Novecento ed è secondo me un autore particolarmente interessante perché è stato in grado di riflettere su tutta una serie di fenomeni che poi caratterizzano la nostra, ahimè, la nostra contemporaneità con una grande forza di, diciamo così, forza prognostica. Intanto bisogna dire che Baudrillard è un autore che si è, a differenza di, diciamo, dei grandi autori della seconda metà del Novecento francesi, soprattutto Derrida, Deleuze, Foucault, diciamo, ha una natura sicuramente meno speculativa, ma molto più legata all'analisi dei fenomeni politici, sociali che hanno caratterizzato appunto la seconda metà del secolo e anche l'inizio del XX. In modo particolare, diciamo, c'è una sua idea che inizia a svilupparsi sostanzialmente già negli anni 70. Lui è un critico molto acceso, diciamo così, del 68, perché in fondo la sua idea è che il mondo si stia trasformando in una sorta di enorme processo di mercificazione totale. E introduce tutta una serie di concetti come quello di iperrealtà, di simulazione, ben prima, diciamo, che la rete fosse quello che è diventato, prima dell'intelligenza artificiale, prima del mondo, del nostro rapporto con la rete, col digitale che abbiamo oggi. Ecco, diciamo, sono tutte questioni che lui aveva già iniziato a intravedere e a ragionarci sopra negli anni 70. Cioè, diciamo, ha la capacità di vedere nel mondo ancora sostanzialmente analogico come sarebbe andata a finire con l'irruzione del digitale. Diciamo che se il secolo, diciamo, se il l'Occidente capitalistico viene visto da Baudrillard come diciamo, ruotare intorno al concetto di produzione, il secondo dopoguerra viene visto un po' sulla scorta, diciamo, della società dello spettacolo di Debord come il momento invece dove il lavoro sporco magari lo si fa fare da qualche altra parte e invece l'Occidente ruota intorno non più alla produzione ma al consumo, cioè il tema del consumo, del rapporto con le merci. Tanti libri, diciamo, di Baudrillard a partire dagli anni 70 sono centrati sul tema delle merci. Diciamo che potremmo. A me sembra che c'è una frase che lui utilizza in un suo testo degli anni 70. Che dice sostanzialmente: siamo usciti dalla tragedia della storia e siamo entrati nell'estasi dello spettacolo o dell'estasi della comunicazione, a seconda, diciamo, utilizza questi due concetti. E che cosa intende sostanzialmente? Teniamo conto appunto che siamo negli anni 70, quindi in un'epoca ancora di grandi conflitti, di tensioni, eccetera. Però, diciamo, lui prima della caduta dell'Unione Sovietica e del muro di Berlino. Però già lui intravedeva nel mondo diciamo cosiddetto occidentale una tendenza alla perdita di attrito del conflitto, cioè il conflitto è come, diciamo, lui utilizza anche queste immagini a volte, è come se prima esisteva un attrito e quindi si riusciva a fare conflitto, oggi no, diventa sempre più difficile trovare il conflitto. E tutto questo lui lo lega al processo, diciamo, di ipercomunicazione, di, lui parla di processo di semiosi continua, che fa sì che tutto alla fine possa significare tutto, no? Per cui Baudrillard è un attento, ci sono delle pagine bellissime su spot pubblicitari, tra parentesi alcune cose molto belle, ci sono alcune analisi molto belle, ci sono anche qua nel Carnevale Cannibale, nel Male Ventriloquo. E lui proprio analizzando il linguaggio commerciale, il linguaggio della merce, andando a ravanare letteralmente nel fango della dei processi di mercificazione, ci sono delle pagine bellissime su Disneyland, sulla California, Baudrillard diciamo è un critico iper radicale fin dai suoi primi libri della società americana, dove peraltro lui diciamo ha insegnato diverse volte come invitato, ma poi non ha mai accettato nessun incarico definitivo. Per esempio là nello Scambio simbolico e la morte c'è la copertina pubblicata in italiano da Feltrinelli, la copertina è abbastanza già significativa, no? E c'è tutta l'idea appunto che lì si sviluppa, lui in quel periodo ha passato un lungo periodo negli Stati Uniti e ci sono delle pagine molto belle, per esempio sul comune di New York, che dava queste pareti ai diciamo ai graffitari, ai writer eccetera, e analizzando questo fenomeno appunto lui diceva, beh, appunto analizzava, il comune ti dà questi spazi, tu diventi da graffitaro, diventi entri nel sistema dell'arte e attraverso il tuo ingresso nel sistema dell'arte la tua carica diciamo di protesta, di contraddizione rispetto al sistema viene digerita, usa proprio questo termine, dal sistema. Ci sono delle analisi diciamo un po' su tutti i fenomeni, dal mondo dei supermercati negli Stati Uniti alle agenzie pubblicitarie fino appunto all'arte contemporanea. Torniamo a quella frase iniziale, no? La frase era siamo usciti dalla tragedia della storia per entrare nell'estasi della comunicazione, dello spettacolo. E appunto quella frase lì essenzialmente sintetizza un po' tutta la linea di tendenza che appunto viene concepita da Baudrillard, uscire dalla tragedia della storia. In fondo, se noi ci pensiamo, le tragedie hanno sicuramente sempre dei lati tragici, si muore, si vive, ma pensiamo alle tragedie di tutti i tipi, cioè da Eschilo fino, passando per Shakespeare fino a Brecht, le tragedie hanno questa caratteristica, cioè si qualcosa, si scontrano delle potenze e poi il mondo alla fine appunto della tragedia il mondo è cambiato, no? Pensiamo a Edipo Re, Antigone, fino appunto alle tragedie di Brecht o di Heiner Müller. E il problema, dice Baudrillard, è che noi di tragedie non ne vediamo più, cioè quello che noi vediamo sono altre forme, casomai siamo entrati appunto, cioè quello che vediamo sono commedie, dove invece nella commedia pensiamo a Fantozzi, no? Fantozzi è sempre, accade di tutto, ma la storia, la condizione di Fantozzi non muta mai. Nelle tragedie possono anche morire tutti i personaggi, ma il mondo dopo è cambiato. Ci troviamo a un altro livello. C'è una la storia passa da un'epoca a un'altra. Ecco, tutto questo per Baudrillard diventa sempre più difficile. Diventa sempre più difficile nel momento in cui appunto siamo entrati in un'estasi comunicativa. Utilizza la parola estasi, appunto, uscita di sé, proprio perché estasi è un termine innanzitutto del linguaggio di carattere religioso, mistico, no? Tu esci dalla storia per entrare in una condizione dove tutto è sempre uguale. Ora, secolarizzando, diciamo, il concetto di estasi, è quello che appunto Baudrillard vuole fare, è il problema che noi abbiamo a che fare con una condizione di estasi non più religiosa, ma di carattere, o forse anche religiosa, ma di una religione appunto che è legata al mondo delle merci, a una cultualità del capitalismo che si presenta come per certi versi momento di festa continua, no? Come diceva Benjamin nel Capitalismo come religione, che è un testo che Baudrillard conosceva bene. È l'unica religione, diceva, è la religione delle religioni, diceva in questo piccolo testo mai pubblicato da Benjamin. È una religione senza, dove il rito si svolge continuamente, dove la festa sta nel compimento del rito, no? E quindi contraddicendo quello che caratterizza invece di solito il rapporto che si ha con la religione, dove ci sono i giorni feriali, i giorni di festa, c'è il rito e appunto il rito dovrebbe portare a un compimento a seconda delle differenti religioni. Quindi la condizione che Baudrillard inizia già a intravedere alla fine degli anni 60, primi anni 70, è questa: essere proiettato dell'uomo, del proletariato. Lui dice anche, tra parentesi ci sono delle belle pagine in questo saggio, sulla mutazione genetica del proletariato da momento, diciamo, negativo all'interno di un processo dialettico a momento di a svolgere una funzione che è propulsiva rispetto a quella condizione di iperrealtà all'interno della quale ci troviamo. Per parlare di iperrealtà e di simulazione bisogna evidentemente ritornare a quella frase da cui avevamo iniziato, cioè all'estasi della comunicazione, no? La comunicazione, il mondo delle immagini, il mondo appunto della comunicazione, soprattutto attraverso le immagini, ma anche attraverso la parola, perde quella capacità di fare attrito. Il ragionamento che fa Baudrillard è sostanzialmente questo, adesso senza, diciamo, entrare in questioni troppo articolate. L'idea è: c'è sempre stata una tensione tra parola e realtà, tra immagine e realtà. Questa tensione si viene ad affievolire, intanto perché le parole e le immagini possono significare tutto. C'è un continuo processo di sfondamento della referenzialità, per usare, diciamo, il termine semiotico classico, delle immagini e delle parole, no? Pensate alle campagne di di Oliviero Toscani recentemente scomparso, no? Erano questioni su cui aveva anche ragionato proprio Pasolini, per esempio anche negli scritti corsari. C'è la famosa immagine della pubblicità dei jeans Jesus, no? Chi mi ama mi segua. Proviamo a metterlo, Oliviero Toscani, no, Jesus. Un litigio un attimo con il computer, ma dovrei farcela. Come? Un litigio un attimo con il computer, ma dovrei farcela, sì, perché fa delle resistenze. Vabbè, ma impossibili. Intanto lo raccontiamo, lo batteremo. Un manifesto, siamo nel 75, se non ricordo male, dove viene fatta questa grande campagna pubblicitaria dei jeans Jesus, che non so nemmeno se esistano più, però già una marca di jeans che si chiama Jesus, questo ha per Baudrillard è interessantissimo. E appunto la prima grande campagna di Toscani mostra questo culo appunto in primo piano, eccolo qua, sì. Chi mi ama mi segua. E poi la campagna, ci furono tutta una serie di ritardi e poi in alcune città venivano ritirate, venivano ecco 73, ecco 75, e però e qui secondo diciamo, se utilizziamo gli strumenti di Baudrillard, in verità su questa cosa ci riflette Pasolini appunto in uno scritto corsaro. E quello che noi vediamo è che, diciamo, il famoso detto chi mi ama mi segue, quindi una citazione di carattere biblico, la marca dei jeans che rinvia a, appunto alla figura di Gesù, si associa ai jeans e al culo, no? Evidentemente qui è successo qualcosa di grave, ma da questo punto di vista è sempre interessante vedere Oliviero Toscani, su cui anche peraltro lavora Baudrillard, che secondo me era un genio del male, ma appunto come tale va trattato. Se noi prendiamo la famosa campagna, quella della United Colors of Benetton, e metti soldato bosniaco, ecco, immagini, e qui poi tocchiamo anche il tema della guerra, no? Perché e qui la io me la ricordo quando l'ho vista, qui siamo appunto durante la guerra nell'ex Jugoslavia. E qui diventa del tutto, noi non sappiamo se questa maglietta e questi pantaloni sono effettivamente serviti, erano di un soldato vero bosniaco, non lo sappiamo, né mai lo sapremo, è del tutto insignificante, ma per vendere, diciamo così, delle magliette, dei pantaloni, si utilizza l'immagine di un soldato vero, presunto, che sia, si rinvia a questo, no? Non solo, la cosa allucinante è che in una manifestazione della pace, siamo appunto durante, per il cessate il fuoco, viene utilizzato questo manifesto dai pacifisti stesso. Qui capite che Baudrillard aveva capito tutto di come sarebbe andata a finire, ahimè, la nostra storia. Cioè, questa cosa qui serve per vendere vestiti in primis, e questa è la sua funzione fondamentale, ma può essere utilizzata contemporaneamente per, diciamo così, celebrare, come è stato fatto, l'intervento a difesa dei bosniaci nell'ex Jugoslavia, e quindi per i bombardamenti appunto sui paesi dell'ex Jugoslavia, e contemporaneamente dalla manifestazione della pace. Cioè, qui abbiamo in un'immagine tutta questa infinita semiosi, questo processo di produzione di senso, come se fosse una lavatrice che gira a velocità vorticosa e che non si ferma mai e che può continuare a voler dire tutto. E in fondo può dire tutto, no? C'è una domanda? Prego. Sì, al volissimo. Certo. Anche, cioè, vendere anche al costo di schifare il consumatore, cioè nel senso, questa idea di sangue, morte, in quale logica contorta dovrebbe attrarre? Beh, non c'è limite, cioè se guardiamo le pubblicità, diciamo che emblematicamente, no? Cioè dopo il culo associato a Gesù, che ovviamente lì per lì scandalizza, siamo negli anni 70, immaginate chi votava Democrazia Cristiana all'epoca, non so, penso a mio zio, no? Che adesso ha 90 anni, all'epoca immagino che cosa possa aver pensato di una pubblicità del genere, cioè proprio una roba da setta satanica. Ma al di là di quello, cioè e su questo poi Baudrillard lavora, cioè una volta che tu hai alzato l'asticella e la alzi sempre di più e la alzi sempre di più, evidentemente non è un caso che dice, beh, noi ormai appunto quando scrive della prima guerra del Golfo, noi tranquillamente abbiamo osservato una guerra in diretta TV sorseggiandoci il calice di vino o la birra mentre vedevamo quello che stava accadendo, lui dice, per difendere i valori occidentali, no? E lui dice, ma che cazzo sono questi valori occidentali se non vendere la merce, se non vendere le armi, se non... Il problema, evidentemente, Baudrillard era un grande studioso della filosofia tedesca, conosceva molto bene la filosofia tedesca, c'è dentro tutto Günther Anders, Walter Benjamin, la scuola di Francoforte, su cui lui aveva fatto parte del suo dottorato di ricerca, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi autori estremamente, diciamo, critici di un... e diciamo che lavorano per una emancipazione collettiva, per un'emancipazione storica, che lavorano diciamo per aprire quel conflitto tragico che, di cui la storia si è sempre nutrita, la rivoluzione francese, la rivoluzione bolscevica e via di questo passo. Lui dice, quello non può più accadere perché manca l'attrito, perché ormai, e questo è diciamo un emblema assolutamente significativo, tutto può voler dire tutto. E quindi alla fine non c'è più modo di creare quella tensione che poi andrà in qualche modo a esplodere in quella che diciamo il linguaggio nostro chiama rivoluzione, rivolta, eccetera, eccetera, ma attraverso questo processo di semiosi infinita le parole e le immagini non riescono più ad essere il veicolo di quella tragicità storica che di fatto hanno sempre ricoperto. Pensate, io quando sono stato, no, adesso rileggendo le cose di Baudrillard, ero andato a studiare a Berlino poco dopo la caduta del muro di Berlino e immediatamente tutto il patrimonio, diciamo, tutti sanno che appunto la Pravda, no? Il famoso giornale, ma tutto la Trabant, la macchina appunto della DDR, tutto viene digerito e ributtato fuori sotto forma di prodotti. Io mi ricordo a Berlino vendevano già le sigarette che si chiamavano Pravda, no? Oppure si rifacevano, si simulavano le sigarette popolari della DDR, che però erano già, il marchio era già stato acquisito dalla Marlboro, dalla Philip Morris, eccetera, eccetera. Cioè Baudrillard vede questa capacità onnivora del capitalismo, appunto giunto nella sua fase simulatoria, è capace di simulare anche la propria contrapposizione, è capace di di digerire ciò che si contrappone e di renderlo, per così dire, organico all'interno del sistema di funzionamento del mercato, no? Ho fatto una domanda io a questo punto. Certo. Ma quindi se non c'è più l'attrito, cos'è che generava l'attrito? L'univocità dei significati attribuibili alle immagini e concetti? Era ciò che, cioè, generava l'attrito. Lui dice, in fondo, quello che noi viviamo oggi, lui dice, il reale non muore per mancanza, lui dice, nel momento in cui non c'è più, diciamo, una tensione dialettica, una polarità, un'alterità tra, per esempio, immagine e parola, tra realtà ed immagine, a partire, no, lui spesso utilizza il mito dell'allegoria della caverna di Platone, no, nella Repubblica, dove appunto Platone cerca di associare l'uscita dello schiavo, appunto, che era nato guardando il fondo della caverna e vedendo queste ombre muoversi e credendo che quella fosse l'unica realtà, con appunto tutto, appunto, un processo che poi lo porta a vedere che quelle ombre in verità erano ombre di oggetti artificiali. Poi ancora più avanti, fino all'uscita dalla caverna e per eccesso di luce, no? Lui, questo schiavo liberato, inizia a guardare quello che c'è fuori, ma riflesso nelle pozzanghere e negli specchi d'acqua. Poi inizia a guardare appunto alberi, piante, sassi, animali alla luce del sole e poi infine riesce a guardare addirittura il sole. Questo processo, diciamo, di avvicinamento conoscitivo alla realtà, che per Platone passa, diciamo, dalle ombre, quindi dalle immagini, fino alle idee, poi si possono dare tanti nomi, no? Ecco, quella cosa lì non è più possibile. Non è più possibile perché non c'è più quella distinzione e quella tensione tra un livello e l'altro. Diventa indecidibile. Lui parla addirittura di una sorta di leucemizzazione del reale, no? È un po' come non ci sono più i globuli bianchi e i globuli rossi. I globuli bianchi hanno divorato tutto. Sono solo globuli bianchi, anche se a volte fingono di essere. Adesso non sono un medico, però lui utilizza questa immagine: fingono di essere rossi, per così dire. Ma in verità sono bianchi anche loro. Lui dice, nel momento in cui non c'è più tensione fra, poniamo, immagine e realtà, c'è una sorta di collasso. Non c'è più né immagine né realtà, ma ci muoviamo in un mondo iperreale. Non è un caso che poi si dice che il Truman Show sia uno dei film, diciamo, che più si è ispirato alla storia così come viene letta da Baudrillard, no? Con l'unica differenza che nel Truman Show c'era la porta, a un certo momento il povero Jim Carrey. Come si chiama? Jim Carrey. Ecco, giusto, Jim Carrey. E vi ricordate, a un certo punto scopre quella porticina, no? Quindi c'era ancora una via di fuga. Il problema è che noi siamo lì dentro pensando di essere nella realtà e a quel punto evidentemente che cosa è realtà e che cosa immagine dentro allo spettacolo è difficile da dire, no? E però per Baudrillard quella porticina non c'è più. Ora, diciamo che Baudrillard è un indubbiamente la sua lettura è estremamente pessimistica e radicalmente pessimistica, ma proprio per questo mi sembra molto interessante, perché appunto è in grado di guardare davvero senza falsi, senza falsi miti, a sbatterci in faccia letteralmente la condizione in cui noi siamo. Appunto una condizione iperreale, simulatoria, no? Tutto è come dire, simulazione di qualcosa senza poter però più risalire a quel qualcosa. C'è l'imitazione, ma non c'è più in alcun modo l'originale. Allora, anche tutta la lettura delle guerre, prima guerra del Golfo, seconda guerra del Golfo, guerre nell'ex Jugoslavia, delle pagine molto belle ci sono, per esempio, su quel famoso presunto massacro, in verità del tutto inesistente, quello di Timisoara. Siamo appunto alla caduta, diciamo, dei... È molto interessante la sua lettura, perché in fondo, diciamo, lui, utilizzando anche qui due forme di ecco, il martirio di Timisoara, no? E c'è ci sono delle immagini che probabilmente ecco, 12.000 le vittime. In verità le vittime sono probabilmente una decina, alcuni parlano di 20-30 persone, divise tra i manifestanti e i poliziotti. Qui si parlava, tutti i giornali cosiddetti occidentali avevano mostrato queste immagini di un massacro che non era avvenuto. Si vedevano, secondo me, se guardiamo qua nelle immagini, salteranno fuori, perché sono veramente... Sì, guarda più su, vai su, ecco. Sì, forse. E li hanno tirati fuori dalle tombe. Sì, esatto. Ecco, questa qua c'era su tutti i giornali. E praticamente, ecco, l'immagine simbolo era quella madre presunta con sopra un bambino. Allora, la signora era una donna poveretta che era morta alcolizzata, e il bambino era un bambino che era morto di malattia. Si trovavano all'obitorio e sono stati messi a bella posta, appunto, per rappresentare qualcosa, appunto, di estremamente spettacolare, un massacro che non era mai che non si era mai realizzato, ma che serviva, appunto, come dice Baudrillard, proprio riprendendo i concetti di Debord, quello di spettacolare integrato, no? Quindi della fusione di quel tipo di spettacolo che vige, secondo Debord, all'interno della società capitalistica, con il tipo invece di spettacolo che, a suo modo di concepire, vigeva in maniera differente, con regole diverse, all'interno del, diciamo, dei paesi del realismo socialista. Ecco, questo momento, secondo Baudrillard, segna l'ingresso al intanto la fusione in un'unica dimensione spettacolare, simulatoria, di tutti i paesi, dove non c'è più nemmeno se prima si davano due tipi di spettacolare, oggi non c'è più nessun tipo di contrasto. L'unica realtà con la R maiuscola, che poi, appunto, Baudrillard cerca di spiegarci che realtà non è, ma è iperrealtà, è spazio simulatorio illimitato, da quel momento in avanti diventa sempre più difficile riuscire a produrre un conflitto di carattere storico. Le pagine, soprattutto del Male Ventriloquo, sono tutte e due saggi, appunto, per conferenze, sono anche, secondo me, straordinari, dal punto di vista letterario, perché ci sono anche qui il traduttore è stato molto bravo nel risolvere anche alcune forzature, perché lui poi passa da, dall'impiego di, diciamo, di un linguaggio di riferimenti, di concetti legati alla filosofia classica fino a modi di dire, eccetera. E qui l'idea è che non si può, lui dice, nemmeno più parlare di dominio, no? Lui dice per esempio nel male ventriloquo, come scrive appunto nel male ventriloquo, l'egemonia non ha più bisogno di un termine opposto, non ha più bisogno del suo contrario per esistere, non siamo più nell'epoca del dominio ma nell'epoca della egemonia. Motivo per cui essa non ha, a differenza del dominio, definizione, e motivo per cui il concetto di liberazione non ha senso per lei, non ne ha che nel campo appunto dei sistemi di dominio. Ci si deve risolvere all'idea che la negatività, così come noi l'abbiamo conosciuta, questa molla della storia e delle azioni umane, è in via di estinzione, no? Lui parla proprio di estinzione della storia, di estinzione dell'immaginazione. Quello che noi viviamo è l'assenza di immaginazione e di realtà che dà luogo a questo collasso, questa assenza di tensione dà luogo appunto a all'iperrealtà, allo spazio simulatorio. Il bene non ha più bisogno del male per esistere, la positività non tiene più in alcun conto della negatività, né come forza diabolica né come antitesi dialettica. Lui parla addirittura, utilizzando proprio il termine di Günther Anders, di una obsolescenza del dominio, no? Proprio perché non c'è più dominio ma solo egemonia, e tutti e quindi diventa sostanzialmente, in verità poi lui cerca di lavorare anche sulle possibilità eventuali di un contrasto, di una opposizione eccetera, che però sono lui parla della testata di Zidane, no? Come esempio estremo di rivolta che mette in discussione il sistema spettacolare all'interno del quale si svolge, giusto per così, forse per lasciare aperta una quella porticina del Truman Show di cui si parlava prima. Però questo discorso che lui fa, che sembra assolutamente, diciamo, come dire, verificabile quasi, però poi si scontra un po' con alcune cose. Cioè, in questo spazio di iperrealtà, dove, diciamo, come dire, la realtà, la sua imitazione, è tutto confuso e spappolato, però per esempio, se io penso alla successione delle guerre che ci sono state dagli anni 90, almeno quelle, diciamo, di cui io ho memoria, non come, come spettatrice, certo. Quindi dai Balcani, poi passando per Afghanistan, Iraq, tutte le ex primavere arabe che poi sono trasformate in tragedie, eccetera. Una cosa che io ricordo bene è in realtà un'assenza di immagini reali da quei luoghi. Mentre oggi, per esempio, dove attraverso gli smartphone e poi questi canali di diffusione, come dire, capillare, proprio individuale, come Telegram, fanno passare le immagini del genocidio a Gaza, che ci arriva sui telefoni, e quindi lo vediamo invece, cioè momento per momento, istante per istante. Ecco, perché allora occultavano quelle immagini? Cioè, perché io non ho visto quasi mai quello che hanno fatto le truppe italiane a Nassiriya, piuttosto che io non ho visto quello che hanno fatto gli statunitensi in Iraq. Eppure è stato un massacro allucinante, cioè sono decine di migliaia di morti. Più di un milione. Non saprei, perché le stime sono completamente schizofreniche su quelle. Però voglio dire, perché però se c'è questo spappolamento, si guardano bene e per esempio Israele non fa entrare nessun media occidentale dentro Gaza, in nessun modo. No, attenzione, ma cioè lo spappolamento, per usare giustamente il tuo termine, cioè lì, come dire, questa dimensione simulatoria iperreale, Baudrillard la lega continuamente anche in questo testo al capitalismo. Cioè il tipo di rappresentazione che noi abbiamo simulatoria, capace di digerire la propria diciamo il polo contrapposto, la estensione della capacità del capitale, diciamo così, di disinnescare il contrasto dialettico, beh, questa roba qui viene dal capitale, cioè non è che lui dice questo tipo di immagini, lui lo legge come diciamo la... il battesimo, se non ricordo male, usa un po' queste immagini, il battesimo di ingresso degli ex paesi socialisti nel mondo del capitale. Cioè questo tipo di rappresentazione, dove lui insiste anche sulla, per certi versi, sulla rozzezza, no? L'idea, Agamben di queste immagini parlava di un dice esplicitamente in Mezzi senza fine, parla di dell'Auschwitz, della società spettacolare, no? Riuscire a considerare un regime come quello di Ceausescu criminale a partire da quattro immagini sfocate fatte con dei cadaveri che sono stati torturati ex post, cioè è una roba allucinante. È vero che noi adesso siamo, come dire, l'asticella si è sollevata ancora dopo Gaza eccetera eccetera, ma l'idea di Baudrillard non è che diciamo non c'è neutralità nella dimensione iperreale, no? Nella dimensione simulatoria, ma è una fase, diciamo, del capitalismo. È di un capitalismo che diventa, lui dice, onnivoro. Però non ha aperto, lo vuol dire, non è riuscito comunque a mangiare, a fagocitare. Poi è un miglio, per tanto, perché me lo pongo, perché con tutto quello che ho visto, probabilmente che la mia coscienza fosse reattiva come quella, non so, di un essere umano, senziente, istruito, eccetera, magari negli anni 40, probabilmente la mia reazione dovrebbe essere diversa rispetto a quella che ho. Però diciamo l'immagine non ha, però, pur essendo stata strumentalizzata, appunto, come dire, utilizzata in modo pubblicitario e a fini scopi come sempre per produrre profitto eccetera, però non ha perso la sua carica, il suo potere, cioè la sua potenza non l'ha smarrita questo. Ma probabilmente no, però capisci, cioè secondo me... Ma non ci impedirebbero di andarci lì a raccontare, a far vedere quello che succede. Ma se noi andiamo a vedere quello che noi potevamo vedere, per esempio, della guerra del Vietnam, no? Ma noi oggi abbiamo un tipo di rappresentazione della guerra estremamente manipolata, no? Molto più di prima. Molto più di prima. Prima, Terzani, la stessa Pallaci, cioè, certo, là, certo. E decidevano loro di andare, indubbiamente. Adesso è impossibile, cioè non puoi, ti ammazzano. Oh, da questo punto di vista, sicuramente il tipo di rappresentazione che tu hai della appunto della e questa cosa qui inizia proprio lì, no? Secondo Baudrillard, nella prima guerra del Golfo vedevamo là le luci verdi e fine. Appunto, Farocchi dice giustamente, le immagini della prima guerra del Golfo sono servite per rimuovere centinaia di migliaia di morti, cioè immagini che servivano per coprire, per nascondere, per, diciamo, secondo Baudrillard, alimentare questa società, questo capitalismo simulatorio che deve essere, che esattamente come già secondo me vedeva bene Debord, è un capitalismo tautologico, cioè la società spettacolare dice quello che appare è bello e quello che è bello appare, punto. Questa è la logica che domina il sistema. Il problema, diciamo, secondo indubbiamente, diciamo, Baudrillard si muove anche sulla scia di Debord, Baudrillard si muove sicuramente su, ma per così dire ne radicalizza, in Debord ancora c'è, perlomeno diciamo nella società dello spettacolo, c'è l'idea di una possibile processo di deragliamento che è possibile mettere in atto proprio a partire dalle immagini, no? Anche Debord aveva capito bene l'importanza delle immagini nella in quello che lui definisce capitalismo spettacolare, cioè è un capitalismo che non può più fare a meno delle immagini, no? È come se diciamo un momento sovrastrutturale diventasse essenziale per la struttura stessa. E diciamo Baudrillard si muove su questa linea qui, cioè anche le immagini che vediamo sono immagini simulatorie, no? Infatti proprio per questo continuiamo, e se noi non andassimo faticosamente a cercarci le immagini di, adesso leggevo addirittura che su Facebook mettono non ti fanno vedere la bandiera della Palestina, no? Giusto? Come contenuto sensibile. Ecco, come contenuto sensibile e violento. Vabbè, magari la vedi tu, non la vedo io, capisci? Cioè non lo so bene. O quantomeno devo cliccare per autorizzare che voglio vedere il contenuto sensibile. Che già no, significa, capisci? Comunque che... È una roba... Però dentro non è privato, quindi mio. Ma anche questo è un tema su cui riflettere, no? Questa private, questo continuo allargarsi di spazi privati. Uno spazio teoricamente percepito come pubblico, certo. Dove il pubblico si incontra con un agorà, come dire, digitale, però ovviamente. E una volta trovai questo libro, credo che era una pubblicazione di Anarchici, quella che ti chiesi quando comprarmi, che è stata pubblicata di recente. Praticamente era un libro che era stato prodotto dopo la prima guerra mondiale e raccoglieva le foto, le immagini dei soldati che tornavano dalla guerra e anche foto reali che non, diciamo, non troviamo normalmente nei libri di storia o nella narrazione della prima guerra mondiale, che erano agghiaccianti. Beh, cioè, il famoso libro di... Terrificanti, era tipo Guerra alla guerra. Sì, guerra alla... Krieg dem Kriege, se cerchi così dovrebbero venire e fuori tutte le foto. E Krieg dem... Esatto, è quello lì, lui, quel libro lì, che era agghiacciante. Ma è la realtà dei soldati che tornavano, certo, dalla prima guerra mondiale, e questo non gira, non te le fa vedere, no? Per esempio qua adesso poi mi fermo perché sennò io posso andare avanti anche. Io stavo andando, volevo incitare l'aiuto alla cucina, chiedendo se la cucina fa uscire da mangiare, finiamo quando volete, una decina di minuti, perfetto, okay. Allora io poi ti volevo chiedere una cosa. Sì, sì, senti qua, a tal proposito, il capitale è l'espressione più pura del principio di realtà, è diventato la realtà. Cioè, no, nella sua definizione, anche qui, interessante che, l'aspetto interessante è che, come dire, la realtà simulatoria di cui parla, no? A volte poi è stato un po' banalizzato il povero Baudrillard. Ma questa realtà simulatoria è il capitale, cioè una realtà simulatoria può esistere solo all'interno di tutto quel processo, appunto, che passa dalla produzione alla mercificazione, alla spettacolarizzazione L'ultimo appunto salto mortale che viene fatto è proprio quello della della realtà simulatoria. Il capitale l'ha prodotta la realtà, esso l'è diventato, ma anche scomparendo la farà al contempo scomparire. Il movimento per il quale è divenuto la realtà e per il quale la divora è il medesimo. È allo stesso tempo momento di produzione di realtà e di divoramento senza, senza soluzione di continuità. E lui parla di cannibalismo del capitale, no? Si produce nello stesso tempo, si distrugge, si mangia, si nega e si riforma. È ovvio che sia molto amato, diciamo, dai produttori di film fantascientifico, Baudrillard. Disegni distopiche preferite proprio. Oh, infatti, cogli in questo slogan della IBM in Francia, no? Su cui si sofferma. Noi l'abbiamo sognato, l'IBM l'ha fatto. C'è l'idea, cioè, che il capitalismo, e in modo poi figurati, qua si parla di IBM, quindi, come dire, gliel'hanno servita su un piatto di argento. Sia l'apparente, ovviamente, piena realizzazione di ciò che l'uomo immaginava. Tutta questa rivoluzione elettronica cibernetica non è forse che un'astuzia animale che l'uomo ha trovato per sfuggire a se stesso insieme alla responsabilità mostruosa alla quale è ormai sovraesposto in un contesto divenuto globale? Regressione del processo sessuale, regressione del processo di morte, regressione di ogni singolarità e di ogni processo fatale a favore della soluzione finale, l'equivalente tecnico e artificiale della vita e della morte. Cioè lui dice, in fondo quello che noi stiamo vivendo è la negazione di tutto, no? Qui ovviamente poi lui si rifà anche in buona parte a Lacan, eccetera. E noi finiamo per vivere in un mondo dove anche le relazioni affettive, sessuali, la nascita, la morte assumono un aspetto simulatorio. Cioè questa è la prospettiva verso cui ci stiamo muovendo, no? E all'interno di questa prospettiva diventa impossibile o difficilmente possibile guardare a una immaginare, è già difficile immaginare in una realtà simulatoria, cioè è già una negazione, è già una è uno spazio che nega l'immaginazione, quindi diventa una parola del tutto desueta e del tutto insignificante. C'è un altro bel passaggio che volevo, e lui dice il fondamentalismo vero da cui proviene l'unico vero terrore, no? Qua lui immagina le guerre al terrore di degli USA e non solo, è quello di una tecnocrazia fluida e mobile, quella dei flussi e delle reti, di una diaspora mentale e di una discriminazione senza appello, un fondamentalismo senza fondamento. Lui dice, questa è la vera roba di cui noi dobbiamo, dice altro che l'Islam, eccetera, eccetera. Tutte le altre forme di violenza reattiva, gli integralismi di ogni colore, i totalitarismi, i fanatismi religiosi ed etnici, tutta questa violenza visibile e spettacolare che culmina il terrorismo è meno mortale di quella visibile e tentacolare del processo globale inesorabile, di quello che noi chiamiamo world processing. E su questa immagine, diciamo, Leggera, leggerissima. Ci sono poi, lui qua cita un bellissimo brano di De Lillo, di Cosmopolis di De Lillo, dove, e a un certo punto, non so se vi ricordate Cosmopolis, che c'è è la vita di questo giovanissimo super mega miliardario, no? C'è anche il film bellissimo di come si chiama il regista, Cronenberg. E lui si muove ed è tutto, e c'è una mega il romanzo è che lui su una mega limousine deve muoversi attraverso New York, facciamo, ma non si capisce, attraverso questa cosmopolis, perché deve andare a tagliarsi i capelli dall'altra parte della città, perché lui va solo lì. Ma no, e poi gli dicono, no, ma l'autista gli dice meglio di no, perché ci sono delle rivolte in corso, eccetera, cioè non mi interessa, andiamo. E quindi praticamente buona parte del romanzo è questo viaggio su una limousine attraverso la città, dove lui però si ferma, fa un aperitivo con la moglie che non vede mai perché ci parla solo attraverso computer e telefono, però poi carica una puttana e scopa sulla limousine e poi la lascia giù. Nel frattempo poi il medico privato sale e gli fa tutta una serie di analisi mentre si muove, poi scende e via di questo passo. E a un certo punto gli dice, ma questi, un personaggio gli dice, ma questi contestatori non sono i seppellitori? No, lui dice, a proposito di questi contestatori, che l'autista, che è anche guardia del corpo, eccetera, dice, potrebbero essere pericolosi, eccetera. E lui dice, ma questi contestatori non sono i seppellitori, questo non è altro che il libero mercato, questa gente è un'invenzione del libero mercato, non esistono fuori dal mercato, non possono starne fuori, non esiste un fuori. E questa idea di De Lillo è, come dire, l'idea del capitale che si è fagocitato tutto. Anche i contestatori, in fondo, non sono che comparse all'interno dello spettacolo del capitale. E in effetti Cosmopolis, questo libro, ma anche il film, devo dire, questa immagine la rendono bene.